9 in punto. Eccoci a 9 in punto, sono le 9 e 11 minuti in realtà, quando cominciamo a parlare dell'influenza A, di questo virus A che sta arrivando, è già arrivato in alcuni casi, rischia di essere una epidemia influenzale, una pandemia influenzale che potrà costringere a letto molti italiani con molti rischi. Si parla di questi rischi, di quello che si sta facendo da una parte per sconfiggere la malattia con i vaccini, con le medicine, dall'altra per limitare i danni. Si è parlato di ipotesi di chiusura delle scuole per un certo periodo, ipotesi che poi è stata smentita e comunque non è stata accolta. Non ci sarà, come invece c'era stato nel lontano 57, un rinvio dell'apertura dell'anno scolastico, quando allora arrivò la famosa influenza asiatica. Ma andiamo al dunque e cominciamo a viaggiare attraverso questo problema del virus A. Lo facciamo, direi, ovviamente con Nicoletta Carbone, che è in studio con me. Buongiorno Nicoletta. Buongiorno a te, direttore, e agli ascoltatori, grazie. Nicoletta Carbone conduce Essere Benessere ogni giorno alle 11. Abbiamo anticipato un po' la sua fatica per affrontare questo tema, non solo da un profilo medico, e sotto il profilo medico ci aiuterà Giuseppe Remuzzi. Buongiorno professor Remuzzi. Buongiorno, buongiorno a voi. Coordinatore delle ricerche dell'Istituto Mario Negri di Bergamo, ma anche da un profilo sociale, politico, sulle emozioni delle persone, e in questo ci aiuterà Paolo De Nardis. Buongiorno professor De Nardis. Buongiorno direttore. Docente di Sociologia alla Sapienza di Roma. Ma l'aspetto forse principale è anche quello politico: come che cosa si sta facendo, come lo Stato sta reagendo a questa problematica. E ringraziamo il Vice Ministro della Salute Ferruccio Fazio. Buongiorno Ministro Fazio. Buongiorno, buongiorno a te. Allora, iniziamo da lei, Ministro. Di fronte a questo tema, lei ha già fatto molte dichiarazioni nei giorni scorsi, dicendo non attueremo provvedimenti di emergenza come la chiusura delle scuole, come altri provvedimenti clamorosi di questo tipo, però la sorveglianza è molto alta. C'è uno stato di crisi. Ecco, come sta reagendo la struttura, diciamo così, politica di fronte a questa emergenza? Ministro Fazio. Ma direi bene, nel senso che, come è noto, la sanità è regionale, è organizzata su base regionale, e noi abbiamo questa unità di crisi insieme con le regioni, in cui si sta esercitando un eccellente coordinamento proprio con tutte le regioni, per fare in modo che la gestione di questa pandemia venga in modo omogeneo in tutto il paese. Quindi proprio oggi pomeriggio avremo una riunione, prima con le regioni e poi anche con i medici di medicina generale e con i pediatri, proprio per fare il punto della situazione e per collocare tutte le figure degli operatori sanitari in un quadro chiaro e coordinato. Ecco, i virus non hanno frontiere, c'è anche una strategia europea di fronte a questo problema? Esattamente, noi siamo, sì, c'è una strategia europea, una strategia mondiale, c'è il CDC, il Center for Disease Control di Atlanta, poi quello europeo, c'è l'OMS, e queste organizzazioni hanno un network con gli stati membri in cui noi evidentemente partecipiamo, e in cui giornalmente ci sono degli aggiornamenti e dei contatti tra tutti gli stati e queste organizzazioni. Ecco, a questo punto, oggi 2 settembre, cosa possiamo dire? A che punto è questa influenza, questo virus? Dov'è? Dove sta andando? Quali sono le prospettive? Quando sarà il punto di maggiore allarme? Ma questo è uno degli argomenti proprio della riunione di oggi, cercare di capire quando avremo il picco. Prima dell'estate pensavamo che il picco sarebbe stato a novembre, o fine di ottobre. Sembrerebbe che il picco si sta spostando in là, questo potrebbe essere una cosa buona, lo pureremo oggi con più chiarezza, perché se questo avvenisse ci darebbe più spazio per il problema delle vaccinazioni, perché andare a vaccinare proprio sul picco evidentemente non è la situazione ideale, come è chiaro. Ministro Fazio, mi scusi se la interrompo, ma lei parla di vaccinazione, chi farà la vaccinazione? Ripeto, questo dal punto di vista proprio tecnico è un altro dei discorsi che affrontiamo, nel senso che noi abbiamo sia i distretti delle ASL, sia la disponibilità anche in parte dei medici di medicina generale e dei pediatri, con cui oggi insieme con le regioni andremo nel dettaglio a verificare delle ipotesi già avanzate nel mese di agosto, quindi ci sono già delle ipotesi per capire come avverranno praticamente le vaccinazioni. Abbiamo anche fatto un piano di logistico per la distribuzione la divisione in pallets e la distribuzione dei vaccini, insomma si sta passando a tutta la fase proprio logistica che in gran parte verrà definita oggi o comunque entro una settimana o due, oggi si farà un grosso passo avanti, penso. Io ricordo gli ascoltatori, grazie Ministro, intanto torniamo subito da lei, ricordo gli ascoltatori l'800 24 0024 per le vostre telefonate, il 349 238 6666 per i messaggi SMS, se ho già alcuni messaggi SMS ci dicono ma è un grande business questo dei vaccini, ecco Ministro Fazio, non c'è un rischio di avviare più un business farmacologico che non una politica di prevenzione sanitaria? Ma guardi, si immagini se questa non è una delle nostre preoccupazioni. Alcuni paesi hanno deciso di vaccinare il 100% della popolazione. Noi siamo tra i paesi in fondo che, insieme con la Spagna, che per adesso è passata al 40%, la Germania che è al 40% come noi, che non hanno deciso di vaccinare tutta la popolazione proprio perché delle simulazioni ci consentono di ipotizzare, anche se poi ci terremo una riserva eventuale, che vaccinando il tipo di popolazione che intendiamo vaccinare, alla fine, cioè a marzo, aprile, la pandemia dovrebbe comunque sparire. Quindi è chiaro che questa è una preoccupazione di tutti e anche nostra. D'altra parte credo che la risposta di tutto il mondo e anche delle organizzazioni come l'OMS e le CDC è stata univoca da questo punto di vista. Vorrei ricordare che la pandemia preoccupa non necessariamente per la sua aggressività, se dovesse essere aggressiva, e questa grazie a Dio non lo è, è un fattore ulteriore di preoccupazione, ma i due fattori importanti di preoccupazione della pandemia sono da un lato l'estrema trasmissibilità e quindi la velocità di trasmissione e dall'altro l'imprevedibilità, ecco perché voi capite che se in un domani ci dovesse essere, è vero che questa attualmente è una pandemia leggera e grazie a Dio fa poche vittime rispetto anche meno anche rispetto a un'influenza stagionale, ma se dovesse avvenire, cosa che non sembra stia avvenendo evidentemente, una mutazione, naturalmente le cose potrebbero complicare. Una pandemia è una pandemia e quindi è comunque un pericolo potenziale importante. Ecco, grazie Ministro Fazio, so che lei deve lasciarci, ma resti ancora un po' con noi. Vorrei chiedere al professor Remuzzi, da una parte di rispondere a una domanda di un nostro ascoltatore che ha mandato un messaggio al 349-238-666 molto rapidamente, che differenza c'è tra questo virus A di cui si parla e la solita influenza che affrontiamo tutti gli anni, e poi se volesse fare una domanda a lei al Ministro Fazio. Professor Remuzzi. Ma la differenza è che qui siamo di fronte a un virus nuovo, in quanto sono stati ricombinati geni di vari ceppi di influenza. Il gene originario, pensate, persino risale all'influenza del 1918. Poi però ci sono state varie ricombinazioni, sono entrati dei virus dei maiali, sono entrati diversi virus dell'uomo, è entrato un virus della aviaria, geni di questi virus. Alla fine si è creato un virus nuovo per cui noi non abbiamo difese immunologiche naturali, come invece ce l'abbiamo per le influenze stagionali che derivano da virus più prevedibili e con meno mutazioni genetiche. Questa è la differenza fondamentale e questa è un po' la ragione di preoccupazione e il senso di pensare al vaccino. Ecco, in questo senso, professor Remuzzi, pensa che la politica che si sta facendo sul fronte di informazione da una parte e di preparazione delle misure appunto farmacologiche dall'altra sia la strada giusta? Ma guardi, io penso che il vaccino lo si debba avere perché potrebbe servire. Io penso però che ci voglia grande prudenza. Lei mi ha chiesto che cosa chiederei al ministro Fazio. Io chiederei al ministro Fazio se non pensa che noi dobbiamo essere più prudenti degli altri, perché un pochino c'è qualche ragione nella domanda dell'ascoltatore precedente. Insomma, pensiamo che Novartis ha avuto dal governo americano commesse per 979 milioni di dollari, solo Novartis, per l'acquisto di questo vaccino, e che chi vuole vaccinare il 100% della popolazione è la Francia, che ha una fortissima industria con una forte partecipazione statale per quanto riguarda la preparazione dei vaccini. Quindi il ministro Fazio ha già detto, noi ci rendiamo molto ben conto di queste cose qua. Il punto è, ministro Fazio, noi vacciniamo 40 milioni di persone, gli studi però non sono ancora finiti. Nell'America sono cominciati 5 studi indipendenti, sapete che gli studi fatti dall'industria tendono un po' sempre a enfatizzare gli aspetti favorevoli dei farmaci verso gli effetti negativi. negli Stati Uniti hanno cominciato 5 studi proprio perché vogliono capire di più di questo vaccino. E allora io vorrei chiedere al Ministro Fazio come mettiamo insieme questo desiderio di tanti paesi, più spinto addirittura del nostro, come ha detto bene il Ministro, di vaccinare così tante persone, verso il fatto che gli studi non sono ancora conclusi. Ministro Fazio. Condivido interamente questo approccio, tant'è vero, e poi vorrei sottolineare un altro approccio, che in realtà non sono disponibili studi sufficienti per la popolazione sotto i 18 anni, quindi proprio parte della popolazione che sarebbe utile vaccinare non è sostanzialmente vaccinabile se non prendendosi una responsabilità che è difficile prendersi, proprio perché non sono disponibili gli studi. Infatti vorrei chiarire che il limite del 40% è il limite di persone che noi intendiamo vaccinare, ma noi abbiamo in questa fase acquisito vaccini e per il resto abbiamo solo prelazioni, acquisito vaccini per solo 8 milioni e 6 di persone, che sono le categorie essenziali e la popolazione a rischio. Questo è il minimo che anche l'OMS, il professor Muzzi naturalmente questo lo sa e lo condividerà, e anche l'ICDC hanno consigliato di vaccinare, e questo è quello che noi vaccineremo entro la fine dell'anno. Il resto del piano vaccinale è un piano prospettico, ma non è ancora stata presa una decisione definitiva. Io credo che quindi questa possa essere una decisione, la nostra, da un lato sufficientemente conservativa e dall'altro garantista, perché voi capite che quando si devono prendere queste decisioni non è facile prenderle, ma da un lato io non vado a vaccinare la categoria essenziale, parte il virus, mi si ammalano tutti i medici, allora cosa succede? Non è che sarebbe stata una buona soluzione. Ecco, grazie Ministro Fazio. Professore Muzzi, ci chiedono per esempio se ovviamente il vaccino è una misura preventiva per evitare il contagio, per evitare la malattia, ma se la malattia arrivasse prima di essere vaccinati o comunque attraverso altre formule, e ci sono largamente i mezzi per combatterla e sconfiggerla, anche la malattia conclamata. Professore Muzzi. L'influenza sostanzialmente, il Ministro ha detto molto bene, è una forma questa per fortuna lieve e quindi la manifestazione clinica assomiglia a quella dell'influenza stagionale e l'evoluzione sarà quella nella maggior parte dei casi dell'influenza stagionale. Allora uno dice ci sono tutti questi farmaci antivirali, in realtà il Lancet dell'8 agosto ha pubblicato un'analisi di tutti i dati della letteratura sulla capacità dei farmaci antivirali di ridurre le complicazioni in chi ha i primi sintomi. E hanno guardato i dati relativi a due farmaci, uno si chiama oseltamivir, il nome è più conosciuto è Tamiflu, e l'altro si chiama zanamivir, il nome più conosciuto è Relenza. Hanno fatto gli studi sulle persone sane che sulle persone a rischio di complicazioni perché avevano malattie del cuore, dei polmoni, diabete e altre malattie. Nelle persone sane questi farmaci riducono i sintomi dell'influenza di mezza giornata. In chi ha malattie croniche e prende questi farmaci, i sintomi vanno via un giorno prima rispetto a chi non prende l'antivirale. Quindi l'effetto è così modesto che non vale la pena di prescrivere questi farmaci al di fuori dell'ospedale o per indicazioni estremamente particolari. Tra l'altro, se si dovesse diffondere l'impiego di questi farmaci, qui io suggerirei davvero a chi ci ascolta di non correre in farmacia a approvvigionarsi di Tamiflu, nel giro di poco tempo noi avremmo ceppi resistenti, e questo è già stato dimostrato in altre occasioni con altre influenze, per esempio con la viaria, molto bene, i dati lì sono molto solidi, e allora nemmeno quei pochi casi gravi ospedalizzati per cui si può immaginare un vantaggio avrebbero quel vantaggio lì. Quindi in realtà bisogna stare molto molto prudenti con i farmaci antivirali. Essere prudenti, evitare i fai da te. Ecco, Ministro Fazio, ci chiedono se tutte queste problematiche, cioè il vaccino da una parte, le terapie dall'altra, resteranno comunque fornite gratuitamente dal servizio sanitario. Sì, il vaccino verrà fornito gratuitamente per le categorie definite dal servizio sanitario e abbiamo anche fatto approvvigionamento di farmaci antivirali, anche questo, si tratta di emergenza e le emergenze fanno parte di intervento del governo. E avete previsto anche una campagna di informazione sul fronte influenzale? Sì, di questa parleremo oggi nel dettaglio, sarà una campagna basata sia su spot televisivi sia su un decalogo che abbiamo prestato e che verrà messo in tutti gli studi medici, nelle scuole, nei studi dentistici, nelle farmacie e che presenteremo fra qualche giorno. E poi altre iniziative, quindi ci rendiamo conto che dobbiamo intensificare quella che è l'informazione ai cittadini su questo argomento. Obama per i bambini americani, ministro Fazio, ha scelto come testimonial della campagna di prevenzione i popolari Muppet, come la vede? Sì, ho visto. Carino, no? Ma guardi, molto, devo dire che molto, e devo dire che Sesame Street è un veicolo straordinario. Ed è un veicolo che, tra l'altro, per cambiare argomento, è stato usato con un grande successo nei bambini dai 4, per esempio in studi che hanno fatto in Colombia, dei bambini tra i 4 e gli 8 anni, addirittura per fare un priming negativo nei confronti della droga e dell'alcol. Cioè, sono dei veicoli che soprattutto sui bambini, e questi sono sicuramente una categoria, i bambini e i giovani su cui dobbiamo lavorare, sono molto interessanti. Quindi questa è anche una delle ipotesi che possiamo considerare. Imparare la prevenzione giocando. Sì, fare un priming è molto importante, che certe cose che non devono essere fatte vengano insegnate in modo positivo, tramite, così come la madre insegna col priming le cose che devono essere fatte. Grazie ministro. Eccoci tornati a parlare di influenza, questo virus A che sta arrivando, che in questo autunno minaccia di mettere a letto molte migliaia di italiani, di avere delle conseguenze anche sociali pesanti. Ne stiamo parlando con Nicoletta Carbone, con il viceministro della Salute Ferruccio Fazio, con il coordinatore delle ricerche del Studio Mario Negri di Bergamo Giuseppe Remuzzi e con il docente di sociologia alla Sapienza Paolo De Nardis, che lo ringrazio per essere stato in attesa fino adesso. Professor De Nardis, buongiorno. Buongiorno a lei. Allora, come abbiamo affrontato con il vice ministro Fazio, un tema importante è quello dell'informazione. Ecco, in questi casi, di fronte a una paura che è naturale nella persona umana, di fronte a un rischio che non si vede, perché i virus non si vedono, arrivano all'improvviso, provocano degli effetti che magari non ci aspettiamo, è naturale che ci sia una paura, che ci sia un timore, che ci sia anche un po' di angoscia di fronte a queste vicende. Cosa consiglierebbe a livello di informazione per diciamo così limitare i danni e per attuare le misure giuste? Professor De Nardis. Ecco, la questione della campagna di informazione sull'influenza diventa un momento fondamentale nella comunicazione pubblica. Quindi consigli tecnici ce ne sarebbero tanti e chiaramente vanno verificati poi nell'impatto. Però indubbiamente un conto è la paura, che è qualcosa di naturale, normale, anzi anche un meccanismo di difesa, se vogliamo, proprio perché più volte abbiamo sentito dal ministro Fazio, dal professor Remuzzi, l'invito alla prudenza è quanto mai opportuno. Altra cosa invece è la paura della paura, cioè una situazione di panico diffuso, sociale, che di fatto blocca qualunque tipo di attività e soprattutto, ecco, fa cadere in quello che lei ha definito giustamente angoscia. Allora, evidentemente bisogna evitare il panico nella pandemia. E qua, dal punto di vista informativo, devo dire che i media si stanno comportando molto bene. Oggi i giornali, da quello che ho potuto vedere, non parlano nemmeno più della questione. Non parlarne più non significa rimuovere il problema. Significa in qualche modo mettere tra parentesi questa sorta di filo rosso pernicioso, che è questo panico che si sta diffondendo, perché il panico si sta diffondendo. Dal punto di vista della Federazione dei Pediatri Italiani, che ha chiesto al Ministero di spostare l'apertura delle scuole, io posso essere quanto mai d'accordo. Mi sembra opportuno però in questo rapporto interistituzionale, interorganizzativo, come dire, fare in modo che tutti i luoghi di socializzazione però mantengano la propria normalità, sia pure normalità statistica. Da questo punto di vista c'è poco da fare. Il panico, molti neurologi ormai lo definiscono una bugia del cervello. Io aggiungo, non è soltanto una bugia del cervello, è anche una bugia delle relazioni interumane, interindividuali, tra gli individui. Per cui la campagna informativa da questo punto di vista è fondamentale. Ci sono state in passato campagne informative a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a volte veramente terroristiche, se vogliamo, che hanno però sortito degli effetti dal punto di vista dei del comportamento dei cittadini. Parlo di un lontano passato, lontano nel tempo e nella memoria. Oggi forse occorrerebbe una campagna di carattere appunto informativo, tecnico, sia pure con tutti i crismi della volgarizzazione in questi casi, nel senso buono del termine, cioè farsi capire da tutti, anche dalla cosiddetta zero struttura, non soltanto dalle tecnostrutture. Ecco, professor De Nardis, noi siamo in una diciamo in un ambiente di modernità e sono cambiati molto anche i rapporti sociali, i rapporti umani, anche perché fino a ieri parlavamo di virus e ci riferivamo ai virus che contagiano i computer, che fanno saltare i programmi, che ci mandano delle email false oppure di vario tipo. Adesso riscopriamo il virus tradizionale, quello che colpisce la persona e che nasce appunto all'interno della realtà umana. Forse è cambiato questo rapporto tra la persona e la realtà esterna in questa civiltà ipertecnologica? Io direi senz'altro sì, perché io mi riferivo per esempio alle campagne di informazione contro l'AIDS, quindi parliamo praticamente di 20 anni fa circa. Oggi in effetti il rapporto è assolutamente diverso. L'ha spiegato molto bene il professor Remuzzi in quella sua sia pur sintetica storia dell'influenza, cioè come è cambiata l'influenza all'interno della storia della medicina e qual è il rapporto fra il potenziale paziente e il male, il virus. Guardi, abbiamo avuto delle situazioni che in qualche modo sono state prodromiche a queste. Purtroppo sono 10 anni ormai che si parla di mucca pazza, anche poco più di 10 anni, una dozzina di mucca pazza, poi l'aviaria, adesso la suina, insomma, ormai la fauna, la zoologia la stiamo un po' esaurendo. Ora, il problema è che io stesso, mi pare forse proprio da questi microfoni, adesso non ricordo, parlai di mucca pazza che rendeva l'opinione pubblica pazza, cioè praticamente la follia di una paura che si decuplica, di una paura che viene stressata in quella maniera, ovviamente bloccava determinati comportamenti e sostanzialmente creava quello stato di panico, ovvero di angoscia generalizzata. Ora, le cose più o meno si stanno trasponendo meccanicamente oggi. 10 anni fa eravamo già in un'era diversa del rapporto persona-realtà, individuo-realtà esterna di cui parlava lei, ma di fatto oggi siamo arrivati a uno stress generalizzato, a una paura generalizzata, per cui diciamo che la cosa ha covato in un periodo fortemente estivo, quindi di vacanze estive degli studenti, dei giovani, poi soprattutto diciamo questa paura delle mamme, dei padri, delle famiglie, certo, per i giovani, per i bambini, per i giovani, visto che sono loro i soggetti che vengono definiti più deboli. Anche qui bisogna capire, bisogna vedere anche da un punto di vista statistico se questo sia vero o sia falso, e comunque sia, ammesso e non concesso che sia vero, ammesso che sia vero, il modo di comunicare questa situazione del soggetto più a rischio è fondamentale dal punto di vista poi del condizionamento di comportamenti dei cittadini, delle persone, degli individui che in qualche modo compongono la nostra comunità. Grazie professor De Nardis. Sentirai Antonio da Roma, buongiorno. Buongiorno a tutti quanti voi. Si dica. Sono un medico ospedaliero, io volevo dire questo. Intanto mi sembra che ci sia un pochino di ritardo da parte delle istituzioni sia nazionali che regionali sulla opportunità che gli operatori della sanità abbiano delle informazioni con protocolli di comportamento rispetto a questa influenza, il che vuol dire per esempio che al momento attuale ancora non è chiaro a chi fare una testologia. Primo punto. Secondo punto, quando arriverà il picco della influenza con le solite complicanze che accompagnano le influenze stagionali, ecco, le persone devono sapere, tutti devono sapere, i politici anche che programmano, che avremo una condizione di criticità non per l'influenza, ma per la riduzione drammatica di posti letto sia di medicina interna che di terapia intensiva rianimazione, perché questa è una falcidia che purtroppo sta avvenendo segnatamente direttamente nella regione Lazio. Questa sarà probabilmente la vera emergenza. Io dico a Montino, che sta mettendo oggi mano a questa riorganizzazione, di tenere presente questo. Grazie mille, grazie al medico Antonio da Roma. Ministro Fazio, ovviamente ogni regione su questa prospettiva, in questa prospettiva è autonoma nel movimento e nel attuare le misure necessarie anche per mettere in condizione gli ospedali di rispondere a questa necessità. Dal suo osservatorio, che però è un osservatorio che poi agisce anche, possiamo rassicurare su questo fronte? Certamente, adesso non possiamo entrare nel dettaglio, cioè non che la pandemia possa interferire con i piani di riorganizzazione. Vorrei ricordare che i piani di riorganizzazione delle regioni sono fatti per migliorare la qualità e non per peggiorare la qualità, e non unicamente per risparmiare. Quindi la razionalizzazione dei posti letto fatta nelle regioni virtuose negli anni 70-80, nelle regioni come il Veneto, come la Lombardia, come la Toscana, come l'Emilia, deve essere fatta adesso nelle regioni oggetto di piano di rientro, perché tanti posti letto non significano buona sanità. Questo è evidentemente certo. Un aspetto importante. Al di là di questo, la cosa positiva è che oggi ci saranno tutti gli assessori regionali, i direttori generali delle regioni, e che si opererà un coordinamento in modo che si stabiliranno dei parametri comuni. Quello che noi vogliamo garantire è che la qualità dell'assistenza sia la stessa, in particolare per quanto attiene al problema dei pochi, ci auguriamo, casi che avranno delle complicanze, per esempio di polmonite. Ecco, quindi tutti avete seguito il caso del giovane che è tuttora in cura a Monza. Questi sono dei casi rari, ma noi dobbiamo puntare a curare bene in tutto il paese questi casi, per vedere di ridurre al massimo degli effetti particolarmente negativi di questo virus, anche se sono pochi. Ecco, certo, quindi ci saranno dei protocolli comuni, o magari delle regole di ingaggio, per usare un termine militare, che risponderà appunto a queste esigenze. Marco da Varese, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti. Io penso giustamente che la paura della pandemia nell'uomo è atavica, non c'è niente da fare, si va nella notte dei tempi. Forse penso che una delle cose che possa far presa è la conoscenza. Ad esempio, io non ho ben capito, a parte tutti sappiamo della spagnola del 18, del 56-57 ho sentito dell'asiatica, ma il motivo da allora adesso, se c'è stata qualche altra pandemia per cui non è necessario la vaccinazione, fra virgolette, per le persone oltre i 27-28 anni. Cioè, c'è stata qualche altra pandemia che le persone più avanti con l'età, da allora in poi, hanno comunque una copertura o qualcosa? È successo qualcosa dopo il 56? Grazie mille, mi sembra che il professor Remuzzi sia il più titolato a rispondere. Professore? Beh, abbiamo avuto una pandemia, comunque un'epidemia molto importante nel 2000 in Israele, ce n'è stata una nel 2008 a Hong Kong, ce n'è stata una nel 68. In realtà quello che sta succedendo è che dal momento che questi sono virus che circolano da moltissimi anni, paradossalmente per questi virus nuovi le persone più anziane hanno apparentemente un certo grado di immunità maggiore, quindi hanno visto in un certo senso qualche gene che fa parte anche di questo virus, non tutti i geni, ma qualche gene, cioè che poi fanno delle proteine, quindi qualche proteina che appartiene anche a questo virus l'hanno già vista prima, quindi il loro sistema immune in un certo senso si è organizzato. E qui però siamo un po' naturalmente di nuovo in difficoltà, e ancora servono degli studi, per quello raccomando sempre molta prudenza, perché mentre l'influenza stagionale colpisce gli anziani e il problema sono soprattutto le complicanze, la polmonite per esempio, in generale gli anziani non muoiono di virus, ma muoiono di complicanze batteriche perché il virus indebolisce l'organismo, questa influenza colpisce di più i giovani che non hanno avuto la possibilità di vedere queste proteine virali prima. Ci chiedono quant'è l'indice di mortalità della normale influenza. Beh, per la normale influenza muoiono in generale una persona su mille, per questa influenza muore forse meno di una persona su mille. Calcolate che una persona su mille vuol dire che in Italia per l'influenza muoiono 3.000 persone, per questa influenza non è morto finora nessuno, naturalmente si sono ammalati molto meno. Immaginatevi la paura se morissero in Italia di questa influenza 3.000 persone, pure sarebbe esattamente come quello che succede tutti gli anni. Su quella stagionale. E noi non ne parliamo. In America muore una persona su 100, quindi la situazione, quando parliamo Obama, la campagna, i bambini, la situazione degli Stati Uniti è molto diversa. Perché è diversa la situazione degli Stati Uniti? Perché è diverso il sistema sanitario. Il sistema sanitario negli Stati Uniti ha delle situazioni drammatiche per quelli che sono poveri, quelli che non hanno un'assistenza sanitaria, per i neri, per gli ispanici, e allora lì dove le condizioni igieniche sono assolutamente precarie, dove queste persone non hanno accesso al servizio sanitario perché non sono coperti dall'assicurazione, quindi non si possono curare, ecco che diventa molto facile che una malattia anche non così grave come questa influenza possa far morire tante persone. Noi da questo punto di vista abbiamo uno dei migliori sistemi sanitari sul piano dell'organizzazione del mondo occidentale e quindi la gente deve rimanere molto tranquilla. Non è un problema di questa è un'influenza, poi ce ne saranno altre. Noi abbiamo un buon sistema sanitario, abbiamo visto nell'occasione della SARS, la reazione dell'Italia alla SARS è stata che è un vero problema, è stata straordinariamente efficace. Ecco, ci chiedono, professore Muzzi, il vaccino antinfluenzale, quello solito che si fa tutti gli autunni, che fanno soprattutto gli anziani tutti gli autunni, non si sovrappone eventualmente a questo nuovo vaccino? Il vaccino per l'influenza stagionale servirà ancora, perché questo vaccino, quando sarà pronto e quando l'avremo conosciuto e quando sapremo come funziona, non protegge nei confronti dell'influenza stagionale. Qui però di nuovo c'è un problema, come vedete la scienza non è in grado di risolvere tutti i problemi, i politici però devono decidere, e questa è una dicotomia anche interessante da discutere. Quindi io apprezzo che i politici hanno e devono decidere con elementi non quasi mai assoluti, perché noi non sappiamo come reagirà il sistema immune quando faremo due vaccini contemporaneamente. Per esempio, un problema che si pone in questi giorni a Anthony Fauci, che è il capo dell'organizzazione del governo americano per le malattie infettive, è: ne dobbiamo dare due, ma come? Diamo prima quello per l'influenza stagionale e poi quello per l'influenza chiamiamo H1N1? Oppure diamo prima questo e poi dopo quello dell'influenza stagionale, o li diamo insieme? E se li dessimo insieme, bisogna farlo in due posti diversi la vaccinazione, ma se li diamo insieme, il sistema immune di fronte a questi due vaccini potenzia la sua risposta per ciascuno dei virus o la riduce? Nemmeno questo sappiamo. Ecco perché il governo americano sta facendo questi studi indipendenti, perché queste sono domande a cui l'industria non ha risposto e non ha interesse evidentemente a rispondere. Certo. Eccoci per l'ultima parte di Nove in Punto, stiamo parlando di influenza. 800 24 00 24 per le vostre telefonate, 349 238 6666 per i messaggi SMS. Riccardo da Piacenza, buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Ci dica. Senta, le persone che avranno accesso alla vaccinazione sono genericamente definite a rischio. Io nella fattispecie ho una persona, mia moglie, che soffre di una malattia autoimmune, una connettivopatia mista, con grosse complicanze polmonari. In questo caso, chi dovrà e potrà definire se mia moglie ha diritto a essere vaccinata o no? La domanda è molto specifica, professore Muzzi. In generale le persone con malattie croniche, che quindi sono a rischio nel caso di contrarre l'influenza, di avere delle complicazioni, sono i primi candidati per la vaccinazione, e quindi sicuramente in questo caso specifico, una volta che l'organizzazione sarà partita, ci sarà particolare attenzione al problema della signora. Ci si potrà rifiutare di essere vaccinati se si viene chiamati perché si è nelle categorie a rischio? Ma certamente, perché noi dobbiamo pensare che il vaccino per l'influenza non è come tutti gli altri vaccini, non è come il vaccino per il morbillo, per la poliomielite, per il tetano, per la pertosse. Questi sono vaccini che hanno un'efficacia enorme. Nei confronti dell'influenza l'atteggiamento di prudenza è giustificato anche da due considerazioni. I vaccini contro l'influenza, che sia quella stagionale o quest'altra di cui stiamo parlando, non sono così efficaci come quelli contro la maggior parte delle altre malattie. Quindi ogni volta che uno si deve vaccinare per l'influenza deve mettere sul piatto della bilancia i potenziali rischi di fronte a benefici che di fatto poi non riguardano nemmeno solo quelli che si vaccinano, ma riguardano anche la comunità, quindi il discorso diventa più complesso. Però quando parliamo di influenza noi facciamo un pochino l'errore di fare l'equivalenza vaccino-protezione. In realtà non è così, sono stati analizzati tutti i dati della letteratura per quanto riguarda l'influenza e la conclusione di uno degli ultimi studi è che in base all'evidenza l'utilità dei vaccini per le comunità di anziani, per esempio, è modesta. Queste sono le ragioni per cui se uno considera di non volersi vaccinare e ha delle ragioni per non volerlo fare, questa è una volontà che va assolutamente assecondata. Ecco, io vorrei chiedere al professor De Nardi, sulla base di molti messaggi che stiamo ricevendo, ma mi dicono che la linea del professor De Nardi è caduta, quindi lascio la parola a Domenico da Varese, torneremo con De Nardi più tardi. Domenico, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei. Senta, io volevo solo dire una cosa, dato che per lavoro passo circa 6 mesi all'anno in Asia, nei paesi dell'est Asia, io ho vissuto direttamente il discorso della SARS e poi dell'aviaria, un po' da quel punto di vista. Io volevo dire che non sono d'accordo con il discorso degli allarmismi, sono d'accordo con il discorso di prevenzione, di tutte i vari passi da fare per poter combattere un'eventuale emergenza, però quello che voglio dire è che io ho visto e ho provato che in quei paesi quando è successa la SARS o la aviaria la vita è andata avanti normale, le persone hanno affrontato tutto il discorso senza panico. Speriamo di andare avanti anche normalmente, noi andremo bene. Anche in Italia, che Nicoletta si rassicura che noi andremo avanti, non abbiamo intenzione di costruire le barricate o di chiudere le finestre, parlarne però è importante per essere informati, per essere documentati, ma non vogliamo fare ovviamente nessun allarmismo. Ma su questo tema mi pare che Francesco da Roma, buongiorno. Buongiorno. Ci dica. Sono da poco stato negli Stati Uniti, in Inghilterra, e ho trovato una situazione abbastanza differente da quella che voi oggi rappresentate, sia dal punto di vista dell'informazione giornalistica, ma anche della gestione del problema in forma operativa. Dal punto di vista giornalistico trovo un ciclo circadiano molto più lento di quello che c'è in Italia, che ogni circa 7-8 giorni accelera, enfatizzando il rischio, e poi improvvisamente frena esponendo interlocutori come quelli della trasmissione che cercano di portare un atteggiamento un po' più razionale. E negli Stati Uniti e in Inghilterra c'è un comportamento molto più omogeneo, si espongono dati statistici e si lascia che i singoli interlocutori si facciano la propria opinione. Trovo che in Italia effettivamente molte testate giornalistiche espongano opinioni di tanti singoli medici, che sicuramente molto più di me, che non faccio il medico, saranno informati, ma che espongono personali opinioni, mentre forse sarebbe opportuno che chi fa informazione si conformasse a un atteggiamento un po' più omogeneo. Io ho sentito parlare urologi, ho sentito parlare dentisti, probabilmente ne sanno molto più di me, ma probabilmente non sono le persone più titolate a dare un'informazione così generale. Quindi questa è la prima differenza che ho notato. L'altra è circa il comportamento operativo. Negli Stati Uniti soprattutto si dice una cosa che in Italia ancora non ho sentito dire, quindi non so se sia corretta e quindi applicabile soltanto al caso degli Stati Uniti, che se uno ha l'equivalente del 37,5 di febbre deve telefonare al proprio medico, che telefonicamente gli dirà se esistono le ragioni per accertamenti ulteriori. Quindi il medico negli Stati Uniti non vuole vedere un ipotetico paziente di questa influenza nel suo studio. Anche in Inghilterra, Francesco, succede questo. Infatti a luglio, quando le mamme mi scrivevano preoccupate dei loro figli in Inghilterra che venivano curati al telefono, abbiamo proprio dedicato spazio e in effetti telefonicamente il curante era in grado di somministrare la cura necessaria. Vorrei sentire un parere del professor Remuzzi a riguardo. Quello di farlo al telefono è giusto, immaginate se la malattia si diffonde, è impensabile di andare a casa di tutte le persone che hanno 37,5 di febbre, e se la malattia non si diffonde non c'è problema. L'interlocutore precedente ha detto alcune cose che sono abbastanza vere, ma che non riguardano tanto l'influenza, riguarda il modo di fare il giornalismo di scienza nei paesi anglosassoni, che è un giornalismo molto più legato ai dati. Non è vero che non ci sono interpretazioni, le interpretazioni ci sono e molto forti, però sono interpretazioni molto bilanciate. Per esempio prima si presentano i dati e poi si sente il parere di una persona, naturalmente si sentono persone competenti, ma questo succede anche in Italia, che ha fatto un determinato studio e quindi ha interesse a enfatizzare i propri dati e si sente qualcuno di molto critico, in modo che effettivamente il lettore si possa fare un'idea. Questo però, il giornalismo anglosassone di scienza è un po' diverso dal nostro. Sarebbe un discorso molto lungo quello sul giornalismo, su come affrontare questi temi, però una battuta al professor De Nardis su questo tema, anche sul fatto, volevo già chiedere, ci sono molti messaggi SMS che sottolineano come sia un po' una montatura giornalistica, una montatura provocata dal business delle case farmaceutiche, provocata dalla politica che vuole mettersi in mostra. Ecco, è anche forse un mezzo di difesa il pensare che sia una montatura, professor De Nardis. Sì, senz'altro un mezzo di difesa, questo mezzo di difesa è anche legittimo in certi momenti. E indubbiamente la comunicazione scientifica e il giornalismo scientifico ha storie diverse a seconda dei paesi, c'è un condizionamento proprio culturale diverso. E in Italia siamo arrivati un po' tardi, e poi in Italia purtroppo siamo un paese più di parole che non di numeri a volte, quindi ha ragione il professor Rimuzzi, ha ragione il nostro ascoltatore, come aveva ragione anche il nostro ascoltatore precedentemente di Varese, io me lo sono appuntato in effetti, quello che è stato un po', lui parla dell'uomo, io direi dell'individuo sociale, quello che è stato un po' il rapporto con la pandemia nel passato, insomma fiorfiori di grandi letterati, scrittori, ne hanno parlato, da Tucidide, Lucrezio, Boccaccio, Manzoni, Camus, il rapporto con la peste per esempio. Certo. Là eravamo di fronte veramente a una situazione in cui il disastro della pandemia uccideva intere popolazioni, e qui siamo di fronte a una situazione ben diversa, e la corretta informazione è tipica poi di uno Stato democratico e di uno Stato in cui il cittadino possa partecipare. È quello che noi cerchiamo di fare, una corretta informazione, cercando appunto di dare spazio anche a voci diverse, perché la corretta informazione deve essere basata anche sul dialogo, non c'è solo una verità, soprattutto su questi fronti, sulla necessità di fare delle politiche che vanno indubbiamente coordinate. Siamo quasi in conclusione, ci sono un po' di domande che io vorrei fare un po' a raffica, professor Remuzzi, proprio molto tecniche. Ci sono molti ascoltatori, molte ascoltatrici che sono incinte. Che problemi particolari ci sono, professor Remuzzi? Beh, i dati che sono a disposizione, quello che è successo è che la maggior parte delle persone che hanno avuto, fra le persone che hanno avuto complicazioni, molte erano persone incinte. Quindi per ci vuole grande attenzione alle persone incinte se la pandemia si dovesse diffondere. Ma devono fare il vaccino? E potrebbe essere una categoria certamente candidata al vaccino una volta che abbiamo i dati sulla sicurezza del vaccino. Un'altra domanda, il vaccino non ha più problemi, non è più un problema che una soluzione, non rischia di avere delle complicazioni, delle controindicazioni? E dobbiamo studiarlo, abbiamo bisogno che finiscano questi studi avviati negli Stati Uniti per avere i vaccini di oggi, sono più sicuri di quelli del passato, quindi quello che è successo nel 76, dove il vaccino ha fatto danni e l'influenza non si è diffusa, potrebbe non succedere perché adesso il sistema di preparazione dei vaccini è più sicuro, però se non sono fatti gli studi non è possibile dirlo. Perché arriva in inverno l'influenza? Perché è più facile che il virus si impianti nelle vie respiratorie più basse, perché se il virus rimane nella gola o nella parte alta delle vie respiratorie non è un problema. Il freddo condiziona la capacità del virus di legarsi a certi recettori che si trovano nelle vie respiratorie più basse. C'è qualche relazione tra i cambiamenti climatici e l'influenza? Non pare che ci debba essere, ma è un problema così difficile da studiare che non ci sono dati sicuri. Grazie professor Remuzzi anche per la sua sensibilità e la sua chiarezza, grazie al professor De Nardis, ordinario della Sapienza di Sociologia, ordinario della Sapienza di Roma, ringrazio anche se ci ha lasciato, il Vice Ministro della Salute Ferruccio Fazio e Nicoletta Carbone che è stata qua con me e che ogni giorno alle 11 su Radio 24 ci illustra le vie di essere e benessere con una grande attenzione alla salute e alle persone. Ringrazio in redazione Sara Spiafico e Laura Vanossi e in regia Filippo Aujeggi. L'appuntamento è per domani.